9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 18 settembre, auguri a chi si chiama Sofia Irene, prima pillola, prima di ritornare un secondo Enzo Iannacci, lo dicevamo che finiva con il terremoto in Emilia, con gli imprenditori indagati per omicidio e strage ed è puntualmente così, 40 indagati che io considero una vergogna. Quando se c'è un terremoto, come abbiamo spiegato mille volte, con le normative che c'erano in Italia, si finisce per fare impresa a essere indagati per omicidio e il paese che ti dice chiudi le imprese. L'effetto che fa, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Seconda pillola, che cosa hanno deciso ieri i custodi giudiziali messi dal GIP di Taranto all'Ilva? Come vi avevamo anticipato, chiusura, si esce dall'acciaio. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Terza pillola dall'intervista di Sergio Marchionne fatta da Ezio Marò, il direttore di Repubblica, la conferma di quello che da queste trasmissioni vi diciamo da oltre un anno, visto che è un anno che quando io faccio trasmissioni sulla Fiat chiedo mi dite quale dei due stabilimenti sono da chiudere, tutti facevano finta di non avere capito. Cosa dice oggi Sergio Marchionne a Ezio Marò? Alla domanda, come spiega gli americani il successo a Detroit, il disastro a Torino? Risposta di Marchionne. Quando spiego loro fanno due conti e mi dicono cosa farebbero. Chiusura di due stabilimenti per togliere sovraccapacità. Bene, non so, più chiaro di così? Una cosa normale è vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Eccoci qua, certo non sono tempi in cui mi si chiede a volte, mi si chiede quotidianamente di essere più ottimista, di identificare soprattutto i punti in cui si tiene, si va meglio. Se andiamo a vedere, ieri c'era questo dato sull'attivo commerciale italiano con un più 4,5%, che è sicuramente uno strepitoso dato sul Made in Italy che continua ad andare bene all'estero, perché le esportazioni italiane sono trainate dai paesi extra europei. C'è l'apertura del Sole 24 Ore ed è la conferma che pur con 30 punti di produzione industriale in meno noi stiamo andando per questo 25 di PIL alle esportazioni molto forti. Però guardate, potranno anche fare i miracoli le 190.000 imprese italiane, di cui un'elevatissima percentuale, quasi un quarto, sono piccolissime e piccole imprese, la più alta percentuale tra i paesi avanzati che esportano. Ma il problema della discontinuità di impresa, di lavoro, di reddito, di patrimonio in questo 2012, che non ha uguali nel secondo dopoguerra, riguarda esattamente invece chi lavora per il mercato domestico. Allora abbiamo deciso oggi, dopo queste prime pillole, di dedicare la puntata, visto che tutte le sere vi trovate nei talk televisivi per prendere audience, tutti che bombardano dai siti produttivi di cui in queste settimane, in questi mesi o addirittura in questi anni, a seconda di quale vicenda si stia parlando, si teme la dismissione, e cioè i vari casi dell'Alcoa, del Sulcis a Portovesme, dell'Ilva, visto questa luminosa decisione che spero venga ribaltata da parte dei custodi giudiziari e così via, voi vedete tutte le sere i dipendenti, gli operai, che giustamente, molto giustamente, io lo comprendo benissimo, chiedono chiarezza dalla politica, dicono ma se qui si chiude noi siamo finiti, e a quel punto iniziano a dire lo Stato altrove fa questo, lo Stato altrove fa quello, perché lo Stato non pensa a noi. Alla fine tutti invocano i soldi di Pantalone Contribuente. Mi sono detto, di fronte al fatto che per l'informazione è molto semplice e molto scontato fare audience aprendo sempre così le trasmissioni, e poi naturalmente venendo a chiedere a gente come me di spiegare che non si può immaginare di andare avanti in un paese in cui diamo i sussidi solo a chi urla di più, non si può immaginare che se le multinazionali dell'alluminio spostano le produzioni dalla parte del mondo più vicina a chi consuma, noi decidiamo di chiedere a Leni, siccome sono pubbliche, compratelo, perché questo significa, io capisco, assecondare magari le attese dei dipendenti, che in una regione provata come la Sardegna, ce ne siamo più volte occupati, assistono a una desertificazione dell'industria del lavoro, ma non esiste che gruppi pubblici italiani possano rilevare stabilimenti così, perché l'alluminio si fa solo se si è integrati a livello mondiale per sinergia e strategia commerciale. E allora mi sono detto, affianchiamo a questa tonante campagna, perché adesso vedrete per i due stabilimenti Fiat che cosa si scatena alla centesima potenza, la battaglia a cui abbiamo già assistito in questi 2 anni e mezzo, una battaglia ideologica. La vicenda Fiat è diventata solo la battaglia per le relazioni industriali. Io questo lo considero un grave errore, perché la battaglia per le relazioni industriali era importantissima e non ho cambiato idea sul fatto che bisognasse fare un passo avanti per la produttività, ma la vicenda Fiat è una vicenda di sottoinvestimento precedente, come ogni volta tentiamo di spiegarvi da questi microfoni, rispetto a unità di capitale per modello progettato, realizzato e soprattutto immaginato tecnologicamente dei concorrenti. Questo sottoinvestimento accumulato negli ultimi 15 anni, di fronte a questo, piuttosto che il fallimento, bravissimo Marchionne che cavalca l'emigrazione oltreoceano, per così dire. Però non è che politici, sindacati, devo dire anche gli altri imprenditori, visto che poi la Fiat esce sbattendo la porta da Confindustria, le polemiche diventano sempre più roventi anche adesso, complessivamente tutte le classi dirigenti fanno finta di cadere dal pero, ed è questa l'immagine patetica, perché riprenderà adesso lo scontro sulle relazioni industriali, lo abbiamo visto anche ieri con Fiom, ma il punto è guardare al nocciolo di un settore industriale che, per errore di chi l'ha condotto, adesso fa il miracolo della sopravvivenza in una parte del mondo dove non è mai stata, e bisogna esserne felici. Ma è ovvio che qui è inutile, che da 2 anni lo sappiamo che l'azienda le vuole chiudere questi stabilimenti. Allora, noi ci siamo detti, occupiamoci degli invisibili, perché se facciamo la somma di tutte queste vicende di cui abbiamo parlato, cioè la COA, cioè il Surcis, cioè persino i due stabilimenti Fiat, se li sommiamo, e c'è anche se ci mettiamo tutta l'ILVA, noi non facciamo la quantità di italiani invisibili per voi solo perché hanno la colpa di essere lavoratori autonomi, solo perché hanno il torto di scommettere su se stessi e lo fanno senza le tutele dei dipendenti, senza i sindacati, eccetera. 100.000 hanno perso il lavoro, 100.000. E allora oggi ci occupiamo di loro, perché forse è il passo e la scelta che dovrebbe fare l'informazione un po' più sistematicamente, occuparsi degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti che hanno non solo più diritto, perché rischiano di più, perché questo sarebbe sbagliato pensarlo, ma ne hanno almeno, diciamo, un decimo, un centesimo di chi invece ottiene l'attenzione attraverso la televisione, attraverso il giornalismo orientato. Di dire lo Stato deve pensare ai dipendenti, lo Stato come continui con i sussidi, lo Stato come... Ecco, invece autonomo potenziale, evasore, vergognati perché non paghi mai abbastanza, chiudi in silenzio e per favore levati dai piedi. Ecco, questo è un pochino quello che succede nel sistema mediatico italiano, dove il lavoro che scompare è solo il lavoro di chi è dipendente. Perché ce ne occupiamo? Perché ieri Confesercenti ha emanato un rapporto in occasione del meeting Confesercenti 2012 e il quadro macroeconomico per l'economia italiana è un quadro molto preoccupato, ovviamente, come tutte le associazioni di categoria hanno un centro studi che elabora dati e ovviamente anche la loro previsione, come scontato che sia se si è persone serie, è che il 2013 che ci aspetta non sarà col segno più, perché è impossibile per il meccanismo di trascinamento quando si perde più 3 punti di PIL che 2. E però hanno fatto il punto soprattutto di ciò che avviene per il lavoro nel settore autonomo. I 100.000 invisibili che scompaiono il settore che non riesce più a assorbire, come accadeva tradizionalmente, l'autoimpiego di chi perde invece il lavoro dipendente. Insomma, una condizione molto, molto, molto preoccupante. Abbiamo qui con noi Mauro Bussoni, che è il vice direttore generale Confesercenti, che io saluto e che ringrazio. Buongiorno. Naturalmente lei sarà molto più equilibrato di me nel presentare i termini della questione, però il mio compito è quello di sferzare un pochino chi in ascolto per capire che la serietà con cui elaborate i numeri da parte del mondo dell'informazione dovrebbe essere accolta anche con un battute di petto, per così dire, quelle che si fanno per il vecchio mea culpa che oggi non si segna più ai ragazzini, perché effettivamente io credo che la totale disattenzione verso quello che avviene nel mondo del lavoro autonomo, dell'artigianato e del commercio sia uno degli aspetti più difficilmente comprensibili del dramma che stiamo vivendo. Questo fenomeno è un fenomeno reversibile secondo lei? Ma guardi, questo è un fenomeno che va avanti, per la verità, già da alcuni anni, da 3-4 anni c'è comunque una tendenza negativa per quanto riguarda il saldo fra imprese che aprono e imprese che chiudono. C'è una riconversione all'interno dei vari settori, ci sono dei settori che soffrono di più rispetto ad altri, abbigliamento, beni di consumo in generale, e si avviano più attività di servizio. C'è un fenomeno che si mantiene, che è quello comunque di chi trova difficoltà ad avere un lavoro, che comunque si orienta a fare e si inventa a volte delle attività di natura imprenditoriale. C'è una contraddizione da parte di chi governa, che da una parte spinge ad avviare nuove attività, specialmente i giovani con le SRL agevolate e quant'altro, ma non c'è nessuna attenzione da parte del governo a cercare di mantenere e stabilizzare la presenza delle imprese all'interno del mercato. Fino a poco anno fa l'esistenza in vita media delle imprese superava i 5 anni, negli ultimi anni la vita media delle imprese non supera i 3 anni. Vuol dire che vengono fatti degli investimenti sbagliati, vuol dire che si avviano le imprese in modo impreparato, vuol dire che non ci sono i supporti nello start-up sufficienti. A volte sarebbe, credo, come è successo in altri paesi, sicuramente molto più produttivo, molto più efficace accompagnare le imprese con efficaci attività di tutoraggio, di supporto, di monitoraggio, per cercare comunque di creare delle imprese sane, perché comunque l'impresa diffusa dell'Italia è un valore che va salvaguardato, imprese che hanno garantito fino ad oggi occupazione, che hanno fatto sacrifici, che hanno perso di proprio, che più delle volte vengono richiamate solamente per i dati relativi all'evasione, agli scontrini e quant'altro, ma sono imprese che soffrono. Noi poco tempo fa abbiamo aperto un sito nostro che si chiama Parla Impresa, è suddiviso per colori, dove le imprese ci mandano i loro messaggi relativamente ai problemi che hanno, chi vuole fare delle denunce, l'abbiamo definito parla rosso, e quindi ci scrive le cose che non vanno, chi è in difficoltà per quanto riguarda il credito parla verde. Noi a breve usciremo con un resoconto dei messaggi che ci sono arrivati da parte delle imprese, che sono messaggi di disperazione, di chi ha avviato un'attività credendoci, di chi si trova in difficoltà, a volte anche per colpe sue, a volte per una situazione contingente dell'economia, e sono imprese che a un certo punto si trovano persone, che si trovano in situazioni di disperazione, così come in situazioni di disperazione coloro che perdono il lavoro all'interno dell'Alcoa e dell'Ilva, che però rispetto a questi comparti, rispetto a questi lavoratori, non ci sia assolutamente l'attenzione sufficiente, è evidente. Noi oltretutto temiamo che i dati relativi al terzo trimestre per quanto riguarda l'avvio e la chiusura delle imprese ritornino ad un tasso di negatività molto alto. Il primo trimestre era stato pessimo, il secondo andava leggermente meglio, le previsioni sul terzo pare che diano un risultato molto molto negativo. Oltretutto noi abbiamo condotto un'indagine attraverso i nostri imprenditori, attraverso anche i dirigenti dell'associazione, chiedendo loro quali erano le previsioni che avevano rispetto al 2013, e le previsioni non sono certo quelle positive, quindi ci troveremo ancora di fronte ad una situazione con consumi interni molto rallentati, e se non si riavvia il volano dei consumi interni, l'attività delle micro e delle imprese diffuse che garantiscono comunque occupazione dipendente difficilmente si uscirà da questa situazione. Quindi questi sono beni, il valore dell'impresa, il valore dell'imprenditorialità, la presenza sul territorio, sono beni che in un qualche modo qualcuno dovrebbe cercare di sostenere in modo diverso, ma non chiediamo sovvenzioni, non chiediamo accompagnamenti ed altro, chiediamo solamente che venga fatta una politica non solo a favore della Fiat, non solo a favore dell'Alcoa, ma a favore di tantissime imprese che dal punto di vista numerico, in termini di occupazione, di produzione di PIL, probabilmente valgono molto di più. Infatti mi ha colpito che tra i 6 fattori che individuate nel vostro rapporto come gli ostacoli per il 2013, oltre a quelli che è inevitabile ed è giusto sottolinearlo, sono sotto gli occhi di tutti a determinare moria di imprese e lavoro autonomo, cioè il fisco, il debito pubblico, il credito, e oltre a rilevare alcuni fenomeni oggettivi, cioè ovvio il calo dei consumi e l'aumento della disoccupazione, ce n'è un ultimo, il sesto, che è un classico esempio di una politica fattoriale che manca e che ovviamente ha un impatto molto rilevante, molto maggiore di quanto non si creda nel tentare almeno di frenare la decrescita del nostro prodotto, che è la mancanza assoluta di attenzione sul turismo. Noi abbiamo in queste ultime settimane ho fatto puntate in cui abbiamo proposto dei bilanci di alcune misure fiscali, per esempio quelle sulle barche, che si sono tradotte in un doppio autogol, perché non solo lo Stato ha incassato meno di un quarto di quello che immaginava, ma soprattutto ha allontanato per oltre 1 miliardo in quel solo settore, con quasi 50.000 barche turistiche regalate ai nostri concorrenti. Ha prodotto un durissimo danno alla ristorazione, agli alberghi, ovviamente ai 500 porticcioli italiani. Ecco, come mai però un intero settore dal quale intuitivamente chi è a casa sempre dice come il turismo, la cultura, perché poi alla fine non si riesce a ottenere quasi niente per misure che non, anche qui non devono chiedere allo Stato di farsi imprenditore turistico, però devono magari immaginare che incentivi fiscali all'aggregazione, alla fusione, cioè alla qualificazione dell'offerta del servizio rispetto a quella consentita dalle basse unità di capitale che sono il patrimonio medio di un'offerta iper purtroppo frammentata. Questo è il grande problema italiano, questo è quello che spiega per me che sono piemontese, perché l'offerta ligure rimane molto al di sotto di quella della Costa Azzurra, pur essendo il mare e il clima del tutto uguale, e questa è la ragione per cui si trova in Costa Azzurra tutto pieno tutto l'anno o quasi, mentre da noi c'è una specie di mordi e scappa di un mese e mezzo e poi il resto è tutto cadente. Ma ecco, come mai un settore intero come il turismo, secondo voi, giustamente lo additate come una delle 6 ragioni oramai del declino italiano? C'è un problema anzitutto per quanto riguarda l'Italia, al di là della Liguria, per la quale occorrerebbe fare un discorso a parte. C'è un problema anzitutto di natura infrastrutturale. In Italia è difficile raggiungere punti che anche dal punto di vista del valore, della qualità della paesaggistica e naturalistica sono eccezionali. Non sempre le strutture dal punto di vista turistico alberghiero sono adeguate, manca un concetto di rete di aggregazione, quindi ci sono colpe anche da parte degli imprenditori, non sono stati fatti gli investimenti necessari per riconvertire strutture alberghiere e riportarle comunque in condizione di attrattività pari quantomeno a quello dei paesi competitors che operano noi nell'area del Mediterraneo. C'è un problema che noi sottolineiamo da tempo: favoriamo comunque l'acquisto immobiliare da parte degli albergatori, e tantissimi alberghi sono gestiti in locazione, la parte immobiliare è una parte fondamentale per poter fare ristrutturazioni, agevolarle e quant'altro. C'è poi anche un problema di competitività generale del paese, allora da noi tutta una serie di costi maggiori, partiamo dal prezzo della benzina, partiamo dal costo delle autostrade, partiamo dal costo dei trasporti, dalla sicurezza, dalla difficoltà a raggiungere determinate località, quindi su questo occorrerebbe fare comunque uno sforzo d'insieme, perché il turismo potrebbe rappresentare per il nostro paese un volano di sviluppo, di opportunità, aumentando comunque l'utilizzo delle strutture dal punto di vista alberghiero ricettivo, aumentando lo sfruttamento delle stesse nel corso del tempo, così come avviene in Francia sulla Costa Azzurra, vanno fatte però anche qui delle scelte opportune. Occorre che si operi nei confronti della modernizzazione, occorre utilizzare molto di più e molto meglio internet, occorre dare migliori informazioni. Ad esempio noi nel corso del nostro meeting abbiamo invitato TripAdvisor, che è un elemento eccezionale per quanto riguarda la scelta, per capire poi dopo dietro TripAdvisor cosa c'è, perché comunque i consumatori, i turisti vanno a vedere e cercano comunque di capire in modo preciso, cioè c'è un problema comunque di crescita e dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista imprenditoriale, ma c'è anche un problema di crescita come paese, quindi occorre che il prezzo della benzina in Italia diventa una palla al piede per tantissimi imprenditori, per tutta l'economia l'aumento sul prezzo dei carburanti ha un effetto domino per come viaggiano le merci in Italia. E naturalmente più di metà va allo Stato, naturalmente per le accise. Io devo dire che nel frattempo ai messaggi SMS, quelli che da inviare al 349-238-6666, è una puntata delle più dolorose perché la quantità di consensi e di messaggi che testimoniano da parte di artigiani, commercianti e lavoro autonomo la loro condizione di grandissima sofferenza, purtroppo mi conferma da una parte che ho fatto bene e dall'altra ci sono anche messaggi critici e lo capisco, alcuni rispondo perché alcuni mi dicono ma questa però se tu combatti l'idea della guerra tra poveri dicendo che non bisogna mettere chi perde il lavoro su una specie di doppia categoria dove a contare sono di più nel mondo dei media solo i lavoratori dipendenti, tu fai al contrario dall'altra parte. Questa è un'osservazione giusta, infatti non mi sentite mai abitualmente però distinguere tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. Dico solo che volevo riportare l'attenzione sul fatto che ci sono 100.000 posti di lavoro autonomo scomparsi negli ultimi 12 mesi per effetto della crisi, e quindi 100.000 famiglie, immaginate che stiamo parlando quindi di 400.000 italiani almeno investiti da questo, ed è un fenomeno purtroppo che inverte una delle tendenze strutturali del nostro mercato del lavoro. Da sempre il nostro mercato del lavoro vedeva nel settore terziario e nell'autoimpiego uno dei canali di riequilibrio dell'occupazione dipendente quando le cose andavano male. Si è rotto questo meccanismo, oltre alla difficoltà dovute all'enormemente accresciuta pretesa fiscale dello Stato, al credito che manca, al fatto che tutti sono cattivi pagatori, al fatto che vi sono dei settori interi, come dice il nostro ascoltatore che mi dice anche del turismo sardo nessuno ne parla perché non è sindacalizzato. Infatti apposta abbiamo parlato adesso con Bussoni di un esempio, il turismo, da cui si dovrebbe ricavare molto di più, in cui il lavoro autonomo è fortissimo nell'offerta, in cui il lavoro precario e la stagionalità sono due caratteristiche fondamentali di chi purtroppo ci lavora come dipendente, eppure non se ne riesce a venire a capo, ecco, tanto per dirvi. Allora, questi sono temi di fronte ai quali mi permetto di dire, pur non sottovalutando l'importanza che quell'acronimo Fiat ha nella storia italiana da ben oltre un secolo, che hanno un impatto complessivo sull'economia del paese superiore alle due stabilimenti della Fiat in Italia, superiore a questo, anche se vi appassionate tutti, vi dividete tra chi vuole comprare italiano e chi se la prende invece con i produttori stranieri, che io preferisco perché fanno prodotti migliori, tranne che in alcuni segmenti adesso della produzione americana. Questo è il punto di fondo, e quindi ci arrivano un mucchio di messaggi, il pasticcere che non riesce, per esempio, pur andandogli le cose benissimo, a espandere il suo laboratorio perché gli manca l'autorizzazione, un dirigente in pensione che aveva per integrare il reddito di famiglia ha riaperto una partita IVA per fare il promotore finanziario, Paolo che ci manda l'SMS da Torino e che poi dice di fronte però alle tasse con cui mi sono venuti addosso avevo un discreto portafoglio ma ho dovuto rinunciare e smettere. Voi direte vabbè, ma sei in pensione, hai fatto dirigente, che c'entra? È il reddito aggiuntivo che crea la cosa a cui pensare. Ecco, sono tantissimi i messaggi, pensateci anche voi a casa, anche se magari non siete un artigiano, una partita IVA, un professionista, un commerciante, o vi stanno magari anche antipatici. Pensate ogni tanto che al dramma dei lavoratori dipendenti, nei confronti dei quali bisogna essere solidari, bisogna anche affinare le orecchie e gli occhi per tanti invisibili che intorno a voi hanno tentato negli ultimi 2 anni di resistere con un patrimonio che diminuiva, con un reddito che diminuiva, e poi si trovano di fronte al fatto di dover mettere uno stop a una vita professionale e a interrompere a quel punto la continuità dell'alimentazione e del reddito della loro famiglia. Abbiamo iniziato con il rapporto annuale di Confesercenti sul quadro economico per l'economia italiana, e proprio di là abbiamo tratto il dato delle 100.000 posizioni di lavoro autonomo scomparse, a inversione di una tendenza che invece era strutturale nell'economia italiana, per cui il lavoro autonomo assorbiva nell'ambito dei servizi gli andamenti negativi, tentava di equilibrarli, non assorbiva integralmente gli andamenti negativi dell'occupazione, lavoro dipendente. Certo è che poi, quando si assiste anche a paradossi come quello della vicenda del Consiglio regionale laziale di questi 2 giorni, ovviamente c'è qualcosa che stride tra la politica e quello che avviene nell'economia, e la drammaticità di quello che avviene nell'economia italiana. Trovo singolare oggi sui giornali soprattutto il tono con cui si è commentato l'intervento del presidente Polverini ieri, al netto di quello che si possa pensare del presidente Polverini, quel baraccone che è il PD era nel Lazio e così via. Il presidente Polverini, a differenza di altri, secondo me ha detto: mi vergogno, siamo l'antipolitica. Eppure sui giornali c'è una sottile ironia, come dire: ah, teatralizzato, ah, ma che c'entra tirare fuori la Costa Concordia, è lei che si regola le sue partite rispetto al PDL. Allora, in Italia non si riesce più a capire cosa bisogna fare. È evidente che vicende come quelle sono di uno schifo abissale, galattico, che producono degli inabissamenti, a proposito sempre di abissi, del consenso di quei partiti nel loro stesso elettorato. Se neanche va bene che un presidente di regione va in aula e dice: mi vergogno, dovete cambiare tutto, siete come il cancro alla mia gola, e si dice: vabbè, adesso addirittura come il cancro alla gola, ti vuoi fare bella? Che cosa stiamo chiedendo noi ai rappresentanti delle istituzioni di fare? Devono reagire con tutta la durezza? Oppure, se pure reagiscono con tutta la durezza, per una volta gli ridiamo dietro e dicono: ah, ti vuoi fare bella? Beh, così siamo proprio, come sempre, un'Italia in cui non si riesce a capire come si fa a fare pulizia. Sentiamo, continuiamo invece sulla attestazione, per così dire, di quanto sia difficile fare impresa, con una storia, con una testimonianza precisa che ci viene da Daniele Strizzolo. E ci viene da Daniele Strizzolo, imprenditore, perché è lui che ce l'ha segnalata, ce l'ha scritta, ce l'ha testimoniata, e credo che la cosa migliore sia sentirla dalla sua voce. Buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino. Allora, qual è la sua attività? Noi ci occupiamo, nel campo del franchising, di fornire servizi. Abbiamo 3 unità locali che si occupano di ristorazione. Di ristorazione stiamo parlando, insomma, di ristorazione in franchising, di una catena di un qualche significato a impatto, voglio dire. Non è proprio un marchio di quelli che conta poco. Esatto, non facciamo pubblicità, ma insomma è una catena che fa parte di una grossa multinazionale. Fa parte di una grande multinazionale associata, insomma, a uno stile di consumo molto diffuso, trasversale, non solo per giovani, non solo nel quick e nell'easy, ma anche con attenzione alla qualità dei prodotti della tradizione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Non facciamo il nome, ma insomma è il primo che vi viene in mente, per voi che siete in casa, quando immaginate: facciamoci una cosa lì, tac, ah, ecco, quel posto là. E quindi voi gestite 3 punti ristoro di questo tipo, di questa catena importante. E quanto fatturate più o meno l'anno? Nel 2011 abbiamo fatturato 7 milioni e 700 mila euro. Un pacco di quattrini, questa è la reazione immediata di chi ascolta. Quindi a questo punto lei ha un cammino impervio in salita, perché chi l'ha ascoltata la immagina come uno, non che se la passa male, anzi, lei se la passa benissimo. Se non che, cosa succede? Succede che noi, essendo una ditta, una società che fa anche trasformazione, abbiamo bisogno di molta manodopera, nella fattispecie un'80ina di dipendenti. Cosa succede? Che arriva il momento di pagare le tasse. Chiudiamo il bilancio, facciamo un bel bilancio con un utile di circa 156 mila euro per la precisione, sulla quale paghiamo IRES. Un momento, la fermo un secondo. Sì. Quanto era il fatturato? 7 milioni e mezzo e oltre? Esatto, 7 milioni e mezzo e oltre. E su 7 milioni e mezzo e oltre l'utile risicato intanto era solo 150 mila euro, quindi già stiamo parlando di un margine, insomma, abbastanza ridotto. Siete ad alta intensità di manodopera, perché nel settore ci vuole gente che copra tutti i turni, eccetera, quindi 80 esatto. Persone sono tante, però l'utile era già solo di 150 mila euro. E a quel punto? A quel punto paghiamo tasse per 111.000 euro, che riducono l'utile netto a 45.000 euro. Quindi lei può ben pensare che di fronte a un fatturato, come lei ha sottolineato, piuttosto importante, ci ritroviamo a dover mettere nelle nostre piccole riserve il netto di 45.000 euro. Allora, io non so se a casa qualcuno di voi immagini che sia giusto su un fatturato di 7 milioni e mezzo di euro, su una capacità di impiego in momenti in cui bisogna difendere il lavoro, perché significa anche creare reddito disponibile da orientare ai consumi, quindi il lavoro va difeso sempre, ma a maggior ragione quando naturalmente si entra in una specie di vortice che distrugge occupazione. Ben 80 famiglie che ruotano intorno a questi tre punti di ristoro, ma pensate, per voi che siete a casa e magari non capite perché stiamo parlando di questa cosa, da 7 milioni e mezzo di fatturato si arriva a un utile risicato per via di tasse ridotto a 40.000 euro, un utile che a quel punto è tutto ciò che i soci dell'azienda possono ritenere come provento di tutto quello che fanno. Guardate, stiamo parlando di un settore, la ristorazione, nel mass market, che implica un impegno dentro bestiale, cioè dall'alba al tramonto e oltre, e tutto quello che si ricava da 7 milioni e mezzo è 40.000 euro. Questa è la fotografia di un paese che, a me sembra, anche in questo settore, dire all'impresa: guardate, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Allora voi dite, beh, stai parlando del lavoro autonomo, degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti. Guardate che il lavoro autonomo e autoimpresa, questa vicenda descrive perfettamente, con un'impresa rilevante, qual è il zero margine che queste regole pubbliche ci mettono in condizione di realizzare. Figuratevi a chi a quel punto non ha, diciamo, le stanze di compensazione o il circolante, che ha un'impresa che fa 7 milioni e mezzo di fatturati e che piazza da hamburger a piatti più raffinati a centinaia ogni giorno. Come si fa ad andare avanti con 40.000 euro di utile su 7 milioni e mezzo? È piuttosto complesso, anche perché sa benissimo adesso che anche le banche sicuramente non ci vengono incontro, in quanto richiedono capitalizzazioni estreme, Basilea 2 e quant'altro. Lei capirà, che è un esperto di economia, che fare capitalizzazione oggi con 45.000 euro netti all'anno risulta molto difficile. Peraltro vorrei aggiungere che mi ritengo pure fortunato, perché se l'utile lordo fosse stato inferiore ai 150.000 euro, per la perversione dell'IRAP, che non ci permette di detrarre il costo del personale, che nel mio caso è altissimo, stiamo parlando di circa 2 milioni di euro all'anno, avrei registrato una perdita. Quindi, oltre alla beffa, oltre all'inganno alla beffa, faccio utile, ma registro perdite. Questa è la perversione della tassazione sulle imprese in Italia, soprattutto quelle che danno lavoro a tante persone. Allora, alcuni naturalmente, io lo sapevo che tirare fuori la storia di 7 milioni e mezzo che diventano 40.000 euro non sarebbe stata compresa da tutti, dice, ma di che si lamenta? Paga le tasse come tutti, di che si lamenta? C'è un piccolo problema, scusate un secondo, ragioniamo a casa. Allora, se il sistema fiscale funziona in maniera tale che metà di quei 100.000 euro pagati su 150.000 di margine risicato, due terzi se ne sono andate in tasse, come avete sentito. Oltre la metà di quei due terzi andate in tasse vengono dall'IRAP, è corretto, Strizzolo? Sì. Esatto. Sì, sì. Allora, il problema è l'IRAP, naturalmente voi lo sapete perfettamente, ma ve lo ricordo, a casa colpisce l'intensità di occupazione. Quanto più gente impieghi, e la paghi anche se sei in perdita, per essere chiari. Allora, un sistema che immagina di tassare l'impresa per oltre due terzi del suo risultato finale, mettendoci dentro come posta da pagare anche se sei sotto la linea l'intensità di lavoro, è un sistema rispetto al quale il vostro commento non dovrebbe essere: vabbè, ma comunque 40.000 euro ti restano post tasse. Dovrebbe essere semplicemente in grado di farvi ragionare questo esempio paradossale nella aberrazione da 7 milioni e mezzo arrivare a 40.000 euro, che è il sistema stesso che amplifica, aggrava, moltiplica le cadute di impresa di continuità, le chiusure di impresa di continuità, l'impossibilità di scommettere su se stessi nell'autoimprenditorialità, che chiede agli imprenditori di andarsene. Avete capito? Un margine così risicato fatto attraverso la pressione impropria fiscale è apposta per sfamare la belva assetata, ladra e stupida, che si chiama Stato ai miei occhi, ancora una volta, ed è fatta apposta perché chi si sbatte in questo modo dica: ma a me, sapete che c'è? Ma chi me lo fa fare? Certo, le 80 famiglie, stanno a cuore le 80 famiglie, però mettere tutto questo ambaradan in piedi per niente e solo perché lo Stato si prende i due terzi, sottolineo, dell'utile, allora a quel punto uno dice: sapete che c'è, se posso andare a gestire una catena altrove dall'Italia, di sicuro i miei margini saranno infinitamente maggiori, e Stato ladro, affonda le tue zanne su qualcun altro. E mentre torna Jim Morrison su This Is The End, ci ha raggiunto Mariano Bella per questa conclusione di trasmissione. Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, lo invito spesso ai nostri microfoni, in realtà per parlare più o meno sempre delle stesse cose, me ne rendo conto, ma gli devo fare una domanda. Anche voi siete, come Confesercenti, convinti che noi stiamo andando a un fine anno che non dovrebbe confermare i primi dati del terzo trimestre che inducevano qualcuno a dire: bah, stiamo uscendo dal fondo, si inverte la direzione della caduta del PIL, sia pure lentamente. Confesercenti ha detto: bah, per come la vediamo noi non la pensiamo così. I dati che ci avete voi, ultimi dopo agosto, cosa dicono, Bella? Ma intanto buongiorno, e purtroppo dobbiamo dire le solite cose perché in questo paese non cambia nulla da 20 anni. Abbiamo scelto la strada del fisco e quindi sempre di quello parliamo. I dati, io l'unica cosa abbastanza affidabile che ho per agosto, per il dopo agosto, è la valutazione dell'indicatore coincidente del CER, cioè il CER prende tutte le serie storiche disponibili, piccole e grandi, su consumi, esportazioni, eccetera, le mette insieme, secondo tecniche ormai consolidate, tira fuori, diciamo, un fattore comune. Ecco, questo fattore comune dice che ad agosto siamo ai minimi storici in termini di livello dell'attività economica. Quindi, francamente, immaginare che ci sarà un'inversione di tendenza va benissimo, ma qualcuno che la immagina dovrebbe dire sulla base di quale evidenza. Noi queste evidenze non ne abbiamo. Avete parlato di chiusure di negozi, mi pare che l'incremento della povertà assoluta e la riduzione dell'imprenditorialità anche nel commercio al dettaglio, oltre che l'ingrosso negli altri settori dei servizi, siano due facce della stessa medaglia, cioè l'impoverimento dal punto di vista di capitale umano anche e soprattutto imprenditoriale che capita in questo paese, soprattutto nelle regioni meridionali, in cui abbiamo il 54% delle persone che sono assolutamente povere, quindi non discorso relativo, ma proprio non riescono a comprare un paniere minimo di beni. Ripeti un po' la percentuale, quant'è? 54% dei 3,4 milioni di persone. Dunque, nel 2007 avevamo 2,4 milioni di persone che vivevano in famiglie che non potevano acquistare un paniere minimo di beni e servizi. Nel 2011 sono diventate 3,4 milioni, cioè abbiamo fatto 1 milione di persone assolutamente povere in più. Ogni tanto anche quelli che si occupano di equità, che vogliono questo eccesso di progressività di ciascuna e tutte le imposte, devono chiedersi se il nostro sistema di redistribuzione, fatto di 800 miliardi di spesa pubblica, funziona, perché noi i poveri li stiamo sviluppando, ne stiamo producendo a un tasso del 40, cioè 1 milione di persone assolutamente povere in più, una cosa pazzesca. Dopodiché abbiamo la moria dei negozi, soprattutto in area 4. Chiaramente questa moria dei negozi è riduzione di capitale imprenditore, è riduzione di benessere in termini di vita. Spiega cosa vuol dire in area 4. Al mezzogiorno più isole, praticamente abbiamo ferramenta, i mobilieri di una volta, gli elettrodomestici, anche negozi abbastanza buoni, gli alimentari despecializzati che stanno chiudendo. Certo, c'è un po' di selezione naturale ed è giusto che ci sia, per esempio, ma qui non sono i numeri di una selezione naturale, questi sono i numeri della strage degli innocenti. Patologie, cioè la fisiologia la vediamo quando abbiamo la tenuta per esempio dell'alimentare specializzato, la patologia la vediamo quando abbiamo un saldo di nati mortalità che è costantemente negativo, dopodiché vuol dire che una parte della nostra imprenditoria sta scomparendo. Esatto, e questo è il bilancio finale. Io ringrazio Mariano Bello e vi induco a riflettere su quello che Confesergenti, Confcommercio, questo è il quadro di fondo in cui mettere vicende come Fiat e i suoi due stabilimenti, ma è un quadro di fondo in cui la gravità di questi numeri è incomparabilmente superiore ai litigi tra imprenditori, sindacalisti e anche alla disattenzione dei politici, che sono la spina dorsale di uno Stato ladro e stupido. A domani.